Siamo con Laura Monaco del Teatro Laura che apre le porte al cinema e diventa cineteatro a partire da lunedì 30 aprile. Laura, benvenuta. Grazie, buon pomeriggio Federico. Ci racconti un po'? Allora, noi siamo partiti con l'avventura del teatro ben 4 anni fa e praticamente da lunedì abbiamo scelto di aprirci anche al cinema perché comunque questa è un'associazione culturale, è un piccolo teatro di quartiere e dato che hanno chiuso proprio sulla nostra parallela Luci Cinema abbiamo deciso invece di riaprire qua la sezione cinema. Quindi faremo una programmazione per questo momento abbinata di teatro e cinema, poi quest'estate daremo più spazio al cinema e poi work in progress vedremo che cosa succederà. Per Senti, avete pensato ad una programmazione settimanale? adesso sì, abbiamo una programmazione classica da cinema settimanale, quindi la programmazione è da lunedì a lunedì. Ora abbiamo Quando corre Nuvolari per gli adulti, Rabbit School e Gli Indesiderati d'Europa. Per lanciare ovviamente il cinema abbiamo scelto di fare una serie di eventi con questi film che sono un po' di nicchia, un po' culturali, diciamo. Quindi Quando corre Nuvolari abbiamo debuttato con lui, che è un film di Tonino Zangardi, il regista perso, insomma, morto da pochissimo, quindi abbiamo fatto un evento lunedì con Haber, con Pannofino, col fratello Marco Zangardi, quindi hanno accolto il film e presentato un po' la figura di Tonino Zangardi. E questa sera abbiamo invece l'evento con gli Indesiderati d'Europa, con il regista Fabrizio Ferraro e gli attori del cast. Quindi Sì. Sì. stiamo cercando un po' di muoverci per eventi e situazioni un po' più particolari. Senti, i tre film saranno in programmazione per ogni giornata? Facciamo 3 spettacoli a giornata, o meglio, dal lunedì al mercoledì facciamo 3 spettacoli, mentre giovedì, venerdì, sabato e domenica ne facciamo ovviamente 2 perché comunque in contemporanea abbiamo ancora la programmazione teatrale che si conclude il 13 maggio. Quindi stiamo facendo sicuramente il cartone tutti i pomeriggi, quindi alle 15, alle 17 c'è la programmazione per bambini e poi a seguire invece gli spettacoli, diciamo, per adulti, chiamo io, ma in realtà sono i film da cinema che sono in programmazione. Ma varieranno negli orari o ogni film avrà sempre lo stesso orario? Allora, Rabbit School, che è il cartone animato, è sempre alle 18, Sempre alle 18, tranne ok. la domenica che è alle 13.30 perché ovviamente il pomeriggio abbiamo il pomeridiano del teatro. Mentre i film Nuvolari e Gli Indesiderati d'Europa si alternano, quindi a volte con lo spettacolo delle 18.30, altre volte lo spettacolo delle 20.30. E abbiamo la programmazione sul sito del teatro nella pagina cinema. Senti, per la scelta dei titoli, come avete fatto e come farete? Io collaboro per questo progetto con la Easy Cinema di Salvatore Scario, quindi è lui un po' che si occupa di scegliere e selezionare i film. Abbiamo scelto una programmazione un pochino di cultura un pochino più alta, quindi che non ci siano proprio film molto molto commerciali, quindi una scelta un pochino più di nicchia. Mentre per i cartoni stiamo cercando appunto di guardare i cartoni del Giffone Festival, in modo tale da fare una selezione per bambini diversa. E cerchiamo appunto di avere il più possibile eventi con i cast, quindi di riuscire ad avere film italiani in modo tale da poter avere anche Gli i autori. cast qui in sala, sì. Sì. Senti, per quanto riguarda questa stagione, avete già pensato per quanto tempo andare avanti per la programmazione dei film? Sicuramente andremo avanti fino ad agosto, Ok. quindi si è partito, non so, questa settimana siamo partiti e continueremo almeno fino ad agosto sicuramente e poi gestiremo un po' la questione vedendo anche la risposta del pubblico in base anche un po' alla selezione di film, quindi navighiamo a vista, mettiamolo così. Ok, allora a questo punto per saperne di più ci lasci tutti i riferimenti web? Assolutamente sì, potete trovare il programma su www.teatrolaura.org/cinema e lì c'è tutta la programmazione sempre aggiornata. Oppure potete chiamarci allo 06 83 777 148, scriverci su nuovoteatrolaura@gmail.com. Ci trovate ovunque. Benissimo, allora Laura, un in bocca al lupo per questo nuovo progetto e ci si sente presto. Crepi il lupo e a prestissimo. Un abbraccio, ciao.